Noi già da inizio marzo, ancora all'inizio dell'emergenza coronavirus, avevamo dato la disponibilità alla Regione Emilia-Romagna a distribuire gratuitamente tutti i farmaci ospedalieri e i presidi, quali strisce per diabetici, siringhe, stomi e cateteri, proprio prevedendo problematiche nella distribuzione in questo periodo di emergenza. La Regione ha rifiutato questa nostra proposta e ha preferito mettere in piedi un sistema di consegna domiciliare con i volontari che però, insomma, da quello che ci risulta un po' dal territorio, dalle segnalazioni dei cittadini, non sta molto funzionando. Per cui, insomma, noi abbiamo ribadito questa disponibilità e siamo anche un po' sorpresi e amareggiati che non sia stata considerata. Ecco. Appunto, stiamo parlando dei farmaci che di solito vengono distribuiti dalle farmacie degli ospedali? Sì, sono farmaci per pazienti complessi o che hanno più patologie. Normalmente vanno a prendere appunto nei presidi ospedalieri o nelle case della salute. Ci sono ovviamente delle difficoltà anche negli orari di apertura di questi. Ieri ad esempio mi segnalavano che a Parma erano chiusi per il patrono e quindi insomma non era possibile andare. Le farmacie sono sempre aperte, sono sotto casa, il cittadino normalmente ha nell'arco di poche centinaia di metri una farmacia, per cui ci sembrava e ci sembra molto più semplice ed efficace la distribuzione tramite le farmacie, peraltro offerta in questo periodo, per tutto il periodo dell'emergenza, a titolo gratuito. Si è fatto un'idea del perché la Regione abbia preferito volontari che magari non sono neanche formati come voi? No, nel senso che non per noi è abbastanza inspiegabile, ecco. Tra l'altro ovviamente c'è il problema della formazione quando si consegnano dei farmaci, c'è il problema dei mezzi di trasporto che, per quello che riguarda il trasporto dei farmaci, devono essere autorizzati e garantire le condizioni ovviamente di trasporto corrette. Diciamo che, ecco, ripeto, è inspiegabile questa scelta. Quindi voi ribadite la disponibilità a effettuare questo servizio, quindi? Sì, siamo pronti in qualunque momento, utilizzando il canale attuale, che è il canale della distribuzione per conto, quindi un canale già sperimentato, in qualunque momento a riaprire il tavolo per ribadire questa nostra offerta che, ripeto, è per tutto il periodo dell'emergenza a titolo gratuito.